Assumete una posizione comoda, seduta, eventualmente con le gambe incrociate a terra, o se preferite utilizzare una sedia, sedete sul bordo della sedia con l'appoggio dei piedi a terra. Per prima cosa portate la consapevolezza al vostro corpo, sentitevi nel corpo, sentite la struttura densa del corpo, la forma del vostro corpo. E all'interno di questa forma corpo iniziate a prendere contatto con il respiro. Respirate in modo fluido, continuo, diaframmatico. Sentite con ogni espirazione un lieve, delicato rientro dell'area ombelicale della parete addominale. E con ogni inspirazione un lieve, delicato movimento di espansione della stessa area ombelicale. Sentite come il respiro fluisca come onda a livello dello stomaco. Espirando delicatamente rientrate l'area dell'ombelico, l'area dello stomaco. Inspirando delicatamente espandete l'area dell'ombelico, l'area dello stomaco. Mantenete la consapevolezza alcuni istanti sul vostro respiro. E poi portate la consapevolezza al tratto che connette il centro dell'ombelico e le narici. Sentite il flusso del respiro interno come energia fra le narici e il centro dell'ombelico, il centro dell'ombelico e le narici. Respirate profondamente, fluidamente, senza pause. Portate ora la consapevolezza all'area che, delimitata dalle vostre narici, vede lo scorrimento del respiro come flusso entro le narici. Sentite con ogni inspirazione l'aria risalire nelle narici e con ogni espirazione l'aria discendere nelle narici.